giallo e nero. Tra i misteri della cronaca con Daniele Biacchissi. Roma, 20 maggio 1999. È primavera, il sole si è alzato da poco. Un vento caldo proviene dal mare. È quasi scirocco. Sibila dentro i vicoli, rimbalza sulle finestre dei palazzi signorili, sui vetri degli uffici ancora vuoti, e poi si infila attraverso il vetro abbassato di un furgone Nissan e va a colpire proprio gli occhi di due giovani seduti accanto all'unotto posteriore. Sono lì da alcuni minuti, appostati e pronti ad agire. Sul vetro hanno applicato da giorni una sottile pellicola bianca. Attraverso i graffi sulla vernice a gesso possono vedere tutta la strada, controllare il movimento dei passanti. Quello seduto davanti al posto di guida sta caricando i proiettili della sua 9-4. Nessuno può vederli e riconoscerli nella loro posizione di tiro. Alle 8.23 il professor Massimo D'Antona, 51 anni, esce dalla sua abitazione al quinto piano di un elegante palazzo di Via Salaria. Un bacio alla moglie Olga e alla figlia Valentina. Scende le scale, chiude il portone e si dirige a piedi verso lo studio di Via Bergamo, dove ogni giorno lavora e realizza le consulenze per il Ministero del Lavoro. D'Antona si lascia dietro Via Po, rimedia il marciapiede di sinistra e cammina lungo Via Salaria in direzione di Piazza Fiume. È davanti al negozio di telefonia e poi attraverso l'incrocio con Via Basento, oltrepassa Via Adda di 10 metri ed entra in quei pochi centimetri che separano Villa Albani dal cartellone pubblicitario. 128 passi. D'Antona cammina a passo normale con la sua borsa in pelle marrone, scura, sulla mano destra. Sono le 8.30. Quando D'Antona sparisce dalla visuale del furgone e il portellone centrale del vanette Nissan targato Varese si spalanca. A quel punto escono due persone, lo sorprendono alle spalle. Il killer, Mario Galesi, impugna una pistola calibro 9x17 tipo corto. Si assicura la copertura e spara senza silenziatore. Uno, due colpi. D'Antona cerca un disperato tentativo di difesa. Si copre il torace con le braccia e con la borsa. 3, 4. D'Antona a quel punto perde l'equilibrio. 5, 6. L'assassino scarica tutto quello che contiene il tamburo della sua 9-4. E l'ultimo proiettile è al cuore. Solo allora il killer ripone il revolver nei pantaloni ed insieme alla complice, Nadia Desdemona Lioce, si dirige verso Via Adda. Veloci come razzi salgono in sella di un motorino, schizzano via e si dileguano nel traffico. Alle 8.35 arriva l'autoambulanza. Le condizioni del professor Massimo D'Antona sono disperate. Viene trasportato al Policlinico Umberto I. Per 40 minuti i medici tentano di rianimarlo, ma Massimo D'Antona muore alle 9.30 del 20 maggio 1999. Passano poche ore e le Brigate Rosse e Partito Comunista Combattente rivendicano l'omicidio, a sostegno del quale si dichiarano anche gli irriducibili tuttora in carcere. Il volantino è lungo 28 cartelle, per la precisione 14 fogli scritti su due facciate, ma questo si saprà solo tempo dopo. C'è la stella a 5 punte, mentre il ciclostile è stato sostituito dal computer. Ma a far ritenere attendibile il documento c'è il linguaggio. Unica novità, al posto del SIM, Stato imperialista delle multinazionali, c'è la BI, che sarebbe la borghesia internazionale. Uno stile talmente contorto e illeggibile che qualcuno ritiene che il documento sia stato originariamente scritto in inglese e poi tradotto. Ma accanto alla retorica c'è la sostanza, ovvero la spiegazione del gesto. Perché D'Antona? Il consigliere di Bassolino viene definito cerniera politico-operativa del rapporto tra esecutivo e sindacato confederale, formulatore e interprete della funzione politica del patto sociale. E il bersaglio vero delle BR è proprio l'accordo sul costo del lavoro del 1993. Non mancano naturalmente i riferimenti alla posizione filo-nato della sinistra durante la guerra in Kosovo, uno degli elementi che probabilmente hanno accelerato il ritorno delle BR, e al tradimento di DS, partito che da comunista che era, si è ora candidato a rappresentare gli interessi della borghesia imperialista. il documento dell'EBR con la cronistoria dell'offensiva al cuore dello Stato. Una offensiva che continuerà. Due le fasi della guerra di classe. Prima, la ricostruzione delle forze rivoluzionarie in vista della rinascita del Partito Comunista Combattente in Italia. Poi, la costruzione del fronte antiimperialista combattente che aiuti la rivoluzione nel mondo. Massimo D'Antona è vicino ai democratici di sinistra. È esperto del mercato del lavoro, studia progetti di riforma che la politica dovrà poi tradurre in atti parlamentari, in leggi dello Stato. D'Antona è uomo del dialogo fra le parti sociali, come Marco Biagi, come Ezio Tarantelli, come Roberto Ruffilli. Un obiettivo troppo simile a quelli del passato, come se ci fosse una continuità tra vecchie e nuove Brigate Rosse. Sergio Flamini, autore di numerosi libri sul terrorismo brigatista. Dopo il delitto D'Antona, si tenga presente che vi è stata una rivendicazione dal carcere di brigatisti, di quello stesso nucleo che avevano partecipato al delitto Conti, al delitto Ruffilli, l'ultimo che era stato compiuto prima di quello D'Antona. La radice sta sempre nelle vecchie Brigate Rosse. L'identikit rimane tale quale quello del passato. Naturalmente la caratteristica fondamentale del brigatismo e del terrorismo rosso in Italia è sempre stato quello di colpire a sinistra. Dal delitto Ruffilli 1988 al delitto D'Antona sono trascorsi 11 anni, però bisogna tener conto che le BR hanno ricevuto i colpi e sono state sgominate. Dal 20 maggio 1999 Olga Di Serio, la moglie di Massimo D'Antona, porta in giro per l'Italia l'eredità di suo marito. E a Giallo e Nero dice, no, proprio no, l'Italia non l'ha dimenticato. Mancanza di memoria direi di no, anzi posso affermare il contrario. Ci sono state innumerevoli commemorazioni nelle sedi istituzionali, cito il Consiglio di Stato, il Consiglio Superiore della Magistratura, nelle università, nelle sedi comunali, nelle sedi sindacali. Inoltre, ecco, sezione dei democratici di sinistra e dei circoli giovanili sono state intestate a mio marito, quindi direi proprio di no, non è stato dimenticato né dalle istituzioni né dai cittadini. Per Olga Di Serio, così come per Marina Orlandi, moglie di Marco Biagi, Carol Bebe Tarantelli, consorte dell'economista Ezio Tarantelli, il percorso è stato difficile, ma identico. A volte la stampa sembrava perfino intrufolarsi nella vita privata. La pressione della stampa, soprattutto nel primo periodo, è stata molto forte, quindi per me in un momento così doloroso, molto faticoso da sostenere. Ma naturalmente ero consapevole che era inevitabile di fronte a un evento così violento e drammatico che ha colpito molto duramente non soltanto la mia famiglia ma l'intero paese. Per il resto devo dire che l'atteggiamento dei giornalisti in generale è stato molto corretto e rispettoso della mia condizione e soprattutto è stato veritiero rispetto alla figura di mio marito e al suo lavoro. E alla fine resta un messaggio che Olga D'Antona indirizza soprattutto ai più giovani. È necessario tenere alto l'allarme sociale, il terrorismo sembrava ormai essere superato e invece ancora presente e rappresenta una minaccia per la vita di cittadini onesti e utili allo Stato. Ecco, questo ci tengo a chiarirlo, non rappresenta una minaccia per la democrazia, rappresenta una minaccia per la vita di cittadini onesti. E poi, vede, scelgono sempre gli uomini migliori, Moro, Bachelet, Tarantelli, Ruffilli, sanno scegliere. Per il resto, ecco, devo dire, per quanto poi riguarda una memoria storica, io dico che c'è bisogno di memoria, perché i nostri giovani, se conoscono la storia attraverso i libri, non hanno vissuto la nostra storia recente, quindi è nostro dovere, nostro impegno far sì che loro questa consapevolezza la acquisiscano. Sta a noi raccontargliela questa storia.